Chi è l'uomo cattivo? Non sono io e neppure tu, e l'altro. Il dizionario definisce cattivo un individuo crudele, un malvagio, un perverso. Nessuno di noi si ritiene cattivo, ma molto probabilmente a volte il nostro comportamento si è avvicinato molto alla cattiveria. Questo ci è sufficiente per riflettere su questo argomento. D'altra parte, definire un uomo cattivo non è facile, perché tutti siamo condizionati dalla nostra cultura. Affermare, per esempio, che i cannibali siano cattivi solo perché mangiano carne umana non ha senso. È un concetto opinabile espresso da chi non è cannibale. La cattiveria è un'altra cosa. Quando una ragazza di 16 anni di nome Shamira è frustrata perché andava a scuola, oppure un'altra ragazza di nome Amel è massacrata perché non portava il velo, oppure Sobia, una pakistana di 15 anni, è avvelenata dal padre perché resa incinta da un italiano, giudicando secondo la cultura occidentale, è difficile comprendere che non siano atti di cattiveria. È come giudicare l'algerino Lazarek che ha stuprato una diciassettenne nel bagno delle donne in una discoteca. È cattiveria o cultura? Per rispondere a queste domande, occorrerebbe rovesciare la problematica e chiedere a chi stupra la ragazza se fosse contento che sua figlia fosse stuprata dal suo più acerrimo nemico, o chiedere al padre che ha avvelenato la ragazza perché è rimasta incinta di uno straniero, se fosse contento se la figlia avvelenasse il padre solo perché ha fatto qualcosa che a lei non piace. Che una persona con una certa cultura abbia un comportamento tale da rendere perplesso chi lo vede come i cannibali che mangiano carne umana, è comprensibile, ma non è comprensibile e approvabile chi ha un comportamento che lui stesso disapprova. I terroristi, per esempio, mettono le bombe ovunque senza guardare il danno morale e materiale. Anzi, i terroristi sono molto premurosi nel procurare il maggior danno possibile. La mia perplessità è: sarebbero contenti se qualcuno facesse le stesse cose nei loro confronti? Molto probabilmente la domanda non ha senso perché è fin troppo evidente che quando i terroristi subiscono delle perdite umane, sono più che offesi e in questo modo dimostrano la sacrosanta verità espressa da Gesù, cioè di fare agli altri ciò che si vorrebbe che gli altri facessero a noi. Chi fa agli altri ciò che non vuole veder fatto a sé si può definire un uomo cattivo. Cosa dice la parola di Dio in merito all'uomo cattivo? Così lo definisce il libro dei Proverbi. PR 16:27. L'uomo cattivo va scavando il male ad altri, sulle sue labbra ci è come un fuoco consumante. Dunque, l'uomo cattivo si rivela subito, cerca di fare del male al prossimo. Il male non nasce all'improvviso, ma è il risultato dell'opera della cattiveria. Come abbiamo detto, definire il male può essere anche discutibile perché un bambino può definire sbagliata la correzione che subisce dal padre. Ma se è male tutto ciò che noi non vorremmo ricevere, allora l'uomo cattivo desidera e compie cose al prossimo che lui sa non essere buone. In effetti una cosa è compiere un'azione ingiusta senza sapere che lo sia. Un'altra è fare al prossimo qualcosa della quale si è consapevoli che reca dolore morale e fisico. Non mi si dica che coloro che torturano i cristiani non sappiano quello che stanno facendo. L'unica risposta a questo deplorevole comportamento è che queste persone siano cattive. Non esiste ingenuità. Quando intenzionalmente si fa soffrire qualcuno, lo posso fare una volta, due volte, ma far soffrire atroci dolori al prossimo costantemente è sinonimo di massima cattiveria. Su questo non ci sono dubbi. Occorre anche aggiungere che fare del male al prossimo non significa sempre derubarlo, stuprarlo, torturarlo o ucciderlo. È anche sufficiente comportarsi senza amore nei suoi confronti. Anzi, il solo pensiero negativo nei confronti del prossimo è ritenuto da Dio un peccato. PR 16:30. Chi chiude gli occhi per tramare cose perverse, chi si morde le labbra, ha già compiuto il male. Quante volte si pensa di fare vendetta non solo ai nostri nemici o avversari, ma anche ai nostri familiari, parenti o fratelli in fede? vi è una cattiveria nel nostro cuore che deve essere controllata. E per questo la scrittura dà ordini ben precisi. PR 3:29. Non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli abita fiducioso con te. Secondo Dio è vera cattiveria quando tutto sembra regolare nei rapporti umani, quando il tuo prossimo non ha alcun sospetto su te e addirittura arriva anche a confidarsi, mentre tu invece trami di ingannarlo, di derubarlo, da fargli del male o addirittura arrivi a tradirlo. Questa è cattiveria bella. E buona. Chi non ha assistito a delle amicizie sfociate in inimicizie o non ha avuto un'amicizia che si è improvvisamente trasformata in odio? L'unica spiegazione razionale è che dietro ci sia stata della cattiveria, cioè il volere colpire negativamente sentimenti e relazioni. Come per ogni cosa, anche l'uomo cattivo porta le conseguenze del suo operato. PR 11:27. Chi si adopera per il bene si attira benevolenza, ma chi cerca il male, male lo colpirà. Nessuno di noi deve erigersi giudice del prossimo perché solo Dio conosce i cuori e a Lui solo di conseguenza spetta tale compito. Troppo intenti a far rivalere i nostri diritti, forse non osserviamo attentamente gli avvenimenti della vita, perdendo così di vista. Ho presente un credente in una comunità che aveva giudicato molto severamente una persona solo perché questa gli era antipatica, ma dopo qualche anno egli si è trovato nel banco degli imputati e fu giudicato molto severamente da persone che gli volevano bene. Anche la parola di Dio riporta episodi di uomini che hanno ricevuto il torto. Commesso! Giacobbe ingannò suo fratello per ottenere certe benedizioni, ma in seguito fu ingannato da suo suocero. Anche un uomo cattivo come Naaman, il nemico dei giudei, pensava di impiccare Mardocheo solo per cattiveria, ma in seguito lui stesso fu impiccato. Occorre tenere presente la legge spirituale secondo la quale chi fa il male sarà colpito dal male, e se questo è vero per gli sprovveduti. Meno perché una legge non guarda le intenzioni, meno quanto più essa si applicherà all'uomo cattivo, cioè a colui che intenzionalmente compie del male nei confronti del prossimo. Quando si parla di cattiveria, istintivamente tutti ci chiudiamo a riccio e non crediamo di avere questa caratteristica. Eppure non vi è nulla di più facile. L'apostolo Paolo, un uomo con la virtù della sincerità, confessò: anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Tito 3.3. Proprio perché guardava in faccia alla realtà, scriveva ai credenti: ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare disonesto. Col 3.8. Dunque la cattiveria, cioè il comportamento del cattivo, è presente in tutti gli uomini che non sono rinati da Dio, come in coloro che hanno fatto professione di fede in Cristo. Se non esprimiamo la nostra naturale cattiveria, è soltanto perché abbiamo imparato a seguire l'impulso dello Spirito Santo, ma resta il fatto che il principio della cattiveria è insito in tutti noi. Un messaggio da parte di Dio che ci deve fare riflettere. Le riflessioni sull'uomo cattivo ci danno due preziose lezioni. A. Poiché per nascita siamo tutti cattivi ed esprimiamo la nostra cattiveria in mille modi, è non solo conveniente, ma indispensabile un cambiamento di cuore e di mente, un processo che si chiama conversione. Gesù disse in merito: Mt. 12:33, o fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Per non dare strada alla cattiveria occorre innanzitutto un radicale cambiamento. È inutile incoraggiare una persona a compiere il bene se la sua natura è incline a compiere il male. E come voler incoraggiare un lupo a non mangiare l'agnello. Ogni tentativo è inutile. Però, se fossimo capaci di inoculare nel lupo l'anima di un cane pastore, non ci sarebbe più bisogno di esortazioni. Perché un cane pastore per natura protegge il gregge. Così, solo quando l'albero è buono, cioè la persona è stata trasformata, possiamo ottenere dei buoni frutti. Chi predica l'Evangelo non è chiamato a moralizzare il prossimo, ma deve insistere sulla nuova nascita, cosa, questa, compresa da pochi predicatori. B. Inoltre, per non essere cattivi occorre un po' di saggezza. Così dice il libro dei Proverbi. PR 13:20. Chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Ancora una volta la scrittura mette in evidenza la necessità di circondarsi di compagnia sana. Se è vero che chi cammina con uno zoppo impara a zoppicare, è altresì vero che frequentando degli insensati si diventa cattivi. Ho conosciuto dei bravi ragazzi che sono diventati insopportabili solo perché frequentavano delle compagnie poco serie, mentre ne ho conosciuti altri che avevano un comportamento cattivo, ma in seguito sono diventati esempi di bontà frequentando dei figli di Dio. A volte non è sufficiente essere nati di nuovo, ma occorre avere la saggezza di frequentare delle compagnie che hanno il timore di Dio, perché le cattive compagnie corrompono buoni costumi. Le riflessioni sull'uomo cattivo mi conducono a tenere presente ciò che è scritto nel libro del profeta Isaia. L'uomo nobile forma nobili disegni, egli si impegna per cose nobili, Is 32:8. Quello che può fare Dio nel cuore dell'uomo non lo può fare nessuno. Lasciamogli lo spazio di operare nel nostro cuore. Gennaio 2007, Pellero.